Respiro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro che dedicheremo in particolare all'agricoltura. Lo facciamo attraverso due ospiti i quali ci introdurranno a un convegno che si svolgerà la settimana prossima a Bologna, in particolare il 18 di novembre presso l'Aula Magna Santa Lucia dell'Università di Bologna. Questo convegno si intitola SOS Agricoltura, sottotitolo Agricoltura, Paesaggio, Ambiente, un destino comune, e i fatti degli ultimi giorni tra il maltempo e il crollo a Pompei ci dimostrano che tutto questo ha effettivamente un destino comune. Dicevamo, è un convegno che si terrà a Bologna e che è organizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, dal WWF e dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. Cominciamo a sentire di che si tratta e il perché di questo convegno da Giulia Maria Mozzoni Crespi, che è il presidente onorario del FAI ed è intervistata per Respiro da Alessandra Scaglioni. Nella vita tutto è collegato. Io ho cominciato ad imparare questo quando era nella quarta elementare, quando la maestra ci raccontò la favola di Menenio Agrippa. La favola racconta che a un certo momento gli organi del corpo umano si ribellarono e il naso disse: io voglio fare per me, io non voglio dipendere dai polmoni. E il fegato disse: io voglio fare per me, non posso dipendere dal cuore. E così ogni organo si ribellò all'altro. Ma che cosa avvenne? Che l'uomo morì, perché il polmone ha bisogno del respiro e dell'aria per poter esercitare la sua funzione. Il fegato deve depurare il sangue e favorire la circolazione che va dal cuore. E le braccia sono necessarie perché l'uomo possa prendere il cibo da mangiare e le gambe per poter camminare. E fu da allora che io compresi l'importanza di come ogni cosa è collegata all'altra. Non per niente il ministro Prestigiacomo, che in questo momento è in gravissime difficoltà, perché non le danno i mezzi per cui sarà obbligata purtroppo a chiudere i parchi nazionali. Non per niente lei sa che il ministro Prestigiacomo sta portando avanti con vigore la battaglia per la biodiversità. Certo. È questo che voleva dire Menenio Agrippa quando me lo insegnarono nella quarta elementare. E mi sembra un ottimo esempio per spiegare anche quanto agricoltura, paesaggio e ambiente, tornando proprio al titolo del vostro convegno, siano collegati. Sì, non solo, dottoressa. Va aggiunto un altro fatto che è collegato a questo tema, e che è il turismo, perché il turista viene in Italia per vedere il nostro paesaggio, che addirittura è un ricamo. Non è immense monoculture come è in paesi americani, australiani, e arrivo a dire anche in parecchi paesi europei. È tutto un insieme di piccole, straordinarie culture che nell'insieme formano il nostro incredibile paesaggio. E tra l'altro sono scese notevolmente di numero le piccole aziende agricole, addirittura del 27% negli ultimi 10 anni. Questo è un fatto drammatico e devo dire che gli allevamenti sono discesi del 50%, e non è vero che l'allevamento di bestiame porta tanto CO2 nell'atmosfera rispetto agli aerei, l'automobile, il carbone bruciato, eccetera, eccetera, perché anche il letame dell'allevamento, se è ben trattato, può anche non disperdere il CO2. A proposito di numeri, ce n'è uno che mi accennavano, ma me lo confermi lei, sul numero dei prodotti in Italia, prodotti chiaramente, parliamo di prodotti della terra, dell'allevamento, dell'agricoltura, che oggi arrivano dall'estero. Ah, non mi parla di quello. Guardi, proprio stamattina io parlavo con dei giornalisti, gli facevo vedere un kiwi dove c'è scritto Nuova Zelanda, quando l'Italia è la massima produttrice di kiwi, ma poi c'è la statistica anche, 4 cibi su 10 che sono targati Made in Italy provengono dall'estero. È per questo che una delle grandi battaglie che noi dobbiamo fare, che la provenienza dei prodotti alimenti edibili in vendita deve venire segnata sull'etichettatura. Non basta dire da dove vengono, ma bisogna dire da quale azienda vengono. Invece noi sappiamo che ora i pomodori arrivano dalla Cina, i kiwi dalla Nuova Zelanda, il latte dalla Germania, poi tutto viene spacciato come made in Italy. E questo è drammatico, e questa è la ragione per cui le nostre aziende stanno andando completamente in ramengo e stanno chiudendo. E questo cosa vuol dire? Lasciano il terreno, e questa è una delle cause di quel dramma che si sta abbattendo sull'Italia in questi giorni, che è il disastro idrogeologico. Senta, le chiedo un'ultima cosa, perché lei prima l'ha accennata, ma il discorso dei parchi nazionali a cui ha fatto cenno prima. Questo è un altro dramma, e anche questo è collegato al turismo, perché la povera Prestigiacomo, che ha un terzo del magre soldi che già aveva 2 anni fa, e lei dice che ne chiuderà metà, con 500 milioni di euro ne chiuderà, dovrà chiuderli tutti più o meno. E questo vuol dire incuria, vuol dire abbandono, cioè la fauna viene dispersa, viene cacciata, verrà costruito, e anche qui incendi, alluvioni, eccetera. E questo vuol dire turismo, perché il turista viene in Italia per vedere i nostri boschi, le nostre bellezze, le nostre coste. Dunque, grazie ad Alessandra Scaglioni per questa intervista a Giulia Maria Mozzoni Crespi, presidente onorario del FAI. Come dicevamo, però, abbiamo in questa puntata anche un secondo ospite. Il secondo ospite è Aldo Paravicini, un coltivatore, ha un'azienda agricola biodinamica, si chiama Cascina Orsine, è in provincia di Pavia, a Bereguardo, e sarà ovviamente presente a Bologna per discutere dei problemi dell'agricoltura, ma sarà presente anche in una seconda parte, diciamo, una prosecuzione ideale del convegno di Bologna, che è il 29esimo convegno internazionale di agricoltura biodinamica, in programma tra il 18 e il 21 novembre ad Arezzo. Con Aldo Paravicini riprendiamo il discorso dalla tutela del territorio per poi arrivare a chiarire che cos'è l'agricoltura biodinamica e che apporto può dare all'agricoltura tradizionale e alla vita di tutti noi. L'agricoltura essere una soluzione a questo problema? Ma diciamo che può, però ci deve essere una precisa scelta, diciamo, di orientamento e di indirizzo politico, perché la collina è abbandonata, perché gli agricoltori che coltivano in collina non riescono più a avere un reddito sufficiente per occuparsi di quei terreni. Di incentivare come? Proprio economicamente? Purtroppo sì, perché se lei chiede a uno svizzero cosa gli pagano il fieno coltivato in montagna, e quindi di riflesso il mantenimento di tutti i versanti, ha sicuramente, penso che più del 50% sia un'integrazione del governo. D'altra parte è un sostegno che si dà, che però evita poi questi danni successivi. Però purtroppo questa è solo una scelta economico-politica, non possiamo più di tanto noi discuterne. Quindi il convegno, diciamo, porterà a Bologna questa proposta, ma soprattutto opererà su altri fronti, sono su quelli puramente agricoli, su come è impostata la politica agricola comunitaria. Adesso i pagamenti fatti alle aziende agricole sono, è giusto lo sappiano anche gli ascoltatori, sono metà a carico della Comunità Europea e metà a carico degli Stati nazionali, e se non erro sono 14 miliardi di euro, certo. Non sono noccioline, che sono adesso indirizzate alle aziende senza nessuna, diciamo, indirizzo di qualità, di indirizzo culturale, perché mentre in passato venivano sostenuti i prezzi, adesso per ovvi motivi di concorrenza mondiale i prezzi non sono più sostenuti, quindi si è costituita una base storica e si dà un premio alle aziende qualsiasi cosa facciano, che loro coltivino il grano turco, cioè veramente, secondo me, buttare soldi fuori dalla finestra, cioè non si premia chi lavora bene e chi lavora male, si punisce chi lavora male, è un premio così, 14 miliardi di euro, cioè una cifra che fanno rizzare i capelli. Quindi noi diciamo, facciamo delle scelte precise, per questo che è importante sia De Castro, e orientiamo la politica agricola in un certo modo. Ecco. Sì, poi Arezzo invece... Arezzo invece si stringe sul campo, sì, no? Si stringe su un po' della biodinamica. Sì, della biodinamica, perché biodinamica in pratica è un'agricoltura che è simile a quella biologica, perché non usa prodotti chimici, antiparassitari, diserbanti, che come tutti sappiamo nuociono alla salute, quindi è un'agricoltura biologica più avanzata, perché usa certi metodi sperimentati fin dagli anni 30 che migliorano la fertilità del terreno e praticamente fanno in modo che, se con un terreno migliorato, noi riusciamo ad avere un prodotto migliore. Non, queste possono sembrare delle chiacchiere, però è giusto far sapere che su delle riviste scientifiche tipo quella di Science, che è una rivista dove vengono pubblicate solo prove documentate, c'è stata pubblicata nel 2002 proprio una prova di 20 anni fatta in Svizzera, e dove usciva vincente sulla qualità del suolo proprio il tipo di agricoltura biodinamica. Quindi oggi il punto debole di tutta la catena purtroppo è la conoscenza da parte del consumatore di queste cose. Il convegno è incentrato su vari aspetti, dall'olivicoltura alla viticoltura, ai cereali, e quindi poi alla panificazione. Si parlerà anche poi di formaggi, insomma si affrontano vari temi della filiera che vanno dalla coltivazione alla trasformazione, sempre nell'ambito del metodo biodinamico. Col grosso boom della filiera corta del gas c'è una strada alternativa, e quindi chi si mette, fa un po' di fatica, per un po' di fatica bisogna farla, si mette insieme le famiglie, così c'è la possibilità di avere dei prezzi di questi prodotti andando direttamente al produttore, che sono molto molto convenienti. Grazie anche ad Aldo Paravicini. Per scriverci, respiro@radio24.it. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento alla prossima settimana.